9 in punto. La versione di Oscar. Allora, oggi, mercoledì 20 di ottobre, ci occupiamo della Cina, ma non della notizia che oggi fa aprire i quotidiani economico-finanziari di tutto il mondo, e cioè l'inaspettato ritocco al tasso di interesse cinese, che è una risposta alle pressioni molto forti da mesi esercitate soprattutto a Washington nei confronti di una politica troppo lasca cinese, che quindi porta a un cambio dello yuan sul dollaro, che gli americani dicono ovviamente essere un vantaggio competitivo aggiuntivo a quello dei costi bassi della Cina. No, non ci occupiamo di questo, ma ci occupiamo di che cosa la Cina offre davvero a chi è italiano, oltre a considerarla, come spesso raccontiamo, un paese di fortissima competizione per il nostro made in, che ha questa vorticosa capacità di saper studiare, copiare il meglio dei prodotti e dei processi da tutto il mondo, e anche però quel paese che l'anno scorso, in due soli mesi tra febbraio ed aprile, come racconto spesso, è stato in grado di dimostrare a chi ha testa economica di essere in grado di fare lo shift, il cambiamento più rapido di cui siamo a conoscenza nella storia dell'economia moderna. Di fronte al calcolo molto ragionevole che la domanda interna americana non potesse tornare ai livelli pre-crisi per molti anni, per l'eccesso di debito che gravava sulle famiglie, ma anche sul sistema bancario soprattutto, e a cui si aggiungevano le tonnellate di debito pubblico acceso dal presidente Obama, che tra qualche settimana ne paga il fio, secondo me, alle elezioni di midterm, i cinesi si interrogarono e dissero: e come facciamo, visto che il nostro modello di crescita è tutto basato sull'export, o per lo più basato sull'export? Si interrogarono rapidamente sulla possibilità che il loro livello di crescita scendesse sotto una soglia tale da ingenerare problemi alla tenuta sociale del paese, e decisero invece di fare un cambio di marcia. Fecero un rapido giro tra tutti i governi del Pacific Ring, cioè della costa asiatica del Pacifico, e a prescindere dal colore politico dei governi in carica dissero: ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca, visto che la domanda americana non tornerà per anni a livello pre-crisi e voi tutti esportavate, allora facciamo una cosa: noi tutti dobbiamo crescere, non possiamo aspettare il comodo e il riallineamento dei debiti americani, esportate tutti in Cina, noi rendiamo il nostro modello di crescita più dipendente dalla domanda interna che dall'esportazione, abbiamo le risorse valutarie e monetarie per sostenere questo cambio, abbiamo il sistema del credito che è in grado, con una certa oculatezza, infatti ecco perché si spiega poi l'aumento del tasso di interesse di ieri, di evitare il surriscaldamento. Quello che ci manca sono molti prodotti da far comprare ai nostri per crescere a questo livello, ma voi li avete, noi vi abbassiamo selettivamente le barriere all'importazione cinese, voi crescerete molto, centrate su di noi cresceremo come prima con più domanda interna. Ed ecco che tutti vissero, per così dire, non felici e contenti, ma ecco come cambia in due soli mesi la storia di un pezzo di mondo che da quel momento in poi, credo per anni, sarà tutto centrato politicamente ed economicamente sulla Cina. Un modello di questo tipo, che cosa ha da offrire a italiani che abbiano capito già da anni che la realtà per molte imprese, per molti settori, è quello di soddisfare al meglio un mercato di centinaia di milioni di nuovi ingressi da una fascia di economia di sussistenza a una fascia invece di benessere crescente? Ha da dire molto, e allora invece che parlare solo in termini numerici e fare le solite questioni di economia comparata o di teoria dell'impresa comparata, oggi abbiamo dedicato questa trasmissione a farci raccontare le storie da chi sta lì, e stando lì ci può raccontare meglio come funziona questo flusso, quanto è aumentato negli ultimi anni, che tipo di italiani stanno lì e a fare che, partendo esattamente da quello che loro vedono ogni giorno nella loro esperienza. Allora, cominciamo immediatamente dagli ospiti di questa prima parte della trasmissione, che sono Leonello Bosco, innanzitutto, che appunto è un consulente di internazionalizzazione e che vive e opera in Cina. Buongiorno Bosca. Buongiorno dottor Giannino, complimenti per la sintesi con cui ha illustrato questo cambiamento chiave della Cina. Grazie a lei. Poi Daniele Di Cristina, che è direttore marketing e vendita della Carraro per l'area dell'Asia Pacifico, e che naturalmente sta in Cina anche lui. Buongiorno Daniele. Buongiorno dottor Giannino e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E poi abbiamo disturbato anche l'ottimo professor Beniamino Quintieri, che è il commissario generale del governo per l'esposizione universale di Shanghai 2010, che quindi ci racconterà lì come sta andando il padiglione italiano e che cosa c'è da imparare, oltre che da tentare anche di insegnare ai cinesi stando lì. Buongiorno a Quintieri. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo da Daniele Di Cristina. Lei sta lì da quanti anni nel gruppo Carraro? E come gli è venuta l'idea di starci? L'hanno obbligato, per così dire, a calci, dicendo: se vuoi fare direttore marketing devi stare lì? O è tutta una sua iniziativa quella di trasferirsi lì per poi tentare di far carriera meglio in un gruppo italiano? Com'è andata, Daniele? Ci spiega? Beh, dunque, io sono qui in Cina dall'ottobre del 2005, quindi sono già 5 anni. Non mi hanno costretto né obbligato, è stata una scelta aziendale di sviluppo della rete commerciale della vendita nell'area, proprio secondo quanto diceva lei inizio trasmissione, ovvero la trasformazione della Cina dalla fabbrica del mondo a un potenziale di vendita molto importante, ovviamente per il nostro gruppo e penso per molte altre aziende. Quindi non è stata una scelta forzata, è stata una scelta di vita che ho fatto con la mia famiglia e quindi ho cominciato questa nuova avventura. Ma dico, nella sua famiglia l'idea, dice: io mi trasferisco in Cina per anni. Quando dice la sua famiglia, aveva una moglie italiana, figli già, di che età, eccetera? Sì, ho una moglie italiana, poi che diciamo mi ha seguito nella scelta, e poi ho due figli, un bambino e di 12 anni e una bambina di 7. Quindi quando ci siamo trasferiti sia Simone che Marianna erano abbastanza giovani e ovviamente ci hanno seguito con entusiasmo. E cosa vuol dire per i suoi figli, cosa vuol dire secondo lei passare quegli anni così decisivi, insomma, eccetera, in Cina? Ma io sinceramente, cioè, lo potremo sapere più avanti, però io spero che sia la possibilità di un'apertura mentale, una conoscenza di culture che sono estremamente diverse da quelle a cui siamo normalmente abituati, soprattutto in Europa e anche negli Stati Uniti. È un cambio molto, molto forte e loro lo hanno intrapreso in un'età molto giovane e i risultati probabilmente li vedremo tra qualche anno. Quando è arrivato, come funzionava, insomma, come era abituato a funzionare nella sua impresa? Che cosa e quante cose ha dovuto cambiare? Beh, innanzitutto penso che il gruppo Carraro abbia fortemente voluto sviluppare quest'area. Inizialmente era probabilmente più un investimento a carattere produttivo e magari per l'export oppure per seguire dei clienti internazionali che venivano ad investire nell'area, ma ovviamente il punto di partenza nella mia assunzione, quindi in questo ruolo, era cercare di aumentare le quote di mercato nel mercato locale, che probabilmente all'inizio potevano essere relativamente piccole all'interno del gruppo, ma che avrebbero potuto avere un significativo risultato importante nel corso degli anni, e questo si è cominciato a verificare proprio nel momento in cui i mercati tradizionali hanno avuto un grosso calo della domanda e quindi il mercato cinese, come giustamente lei ha ricordato all'inizio della trasmissione, grazie alle politiche di stimolo sicuramente ha cominciato a invertire la rotta che lo vedeva anche in discesa come crescita economica, grazie a degli investimenti nel mercato interno, quindi si è completamente trasformato da un paese a solo carattere di esportazione ad un paese in cui il consumo interno aveva la sua importanza e di conseguenza i prodotti, anche quelli tecnologici che magari inizialmente avevano un prezzo molto differente, hanno cominciato ad avere un po' più importanza. Senta, ma al di là, diciamo così, degli obblighi diplomatici, perché è ovvio che operando in un paese tentando di crescervi nel mercato, immagino, avendo a che fare poi con fornitori, catene commerciali, tutti cinesi, quindi immagino che sia, com'è ovvio, quando si è ospiti a casa di qualcuno e si tenta di avere un ruolo più importante nella sua casa, innanzitutto la diplomazia e la buona educazione e il tentativo di carpirne la fiducia, di conquistarsi la fiducia, è una regola di fondo sempre per vendere meglio, figuriamoci quando si sta all'estero. Ma al di là di questo, se dovesse dire a un manager che dovesse prendere in considerazione l'idea di trasferirsi nel suo gruppo o in gruppi diversi da quelli in cui lavora in Italia e dovesse star lì a immaginare di venire in Cina, in due parole, la cosa in cui lei si è trovato meglio senza che se lo aspettasse e quella invece che si è rivelata una delle pareti più ripide da superare, ecco, questi due estremi, quali esempi ci farebbe? Mi sono trovato sinceramente meglio, al di là delle grandissime differenze culturali, è stato nei rapporti umani con le persone, quindi se io dovessi suggerire qualcosa, credo che per un'impresa che deve venire in Cina, insomma, deve dare molta attenzione all'aspetto delle relazioni, sia con gli organi politici, ma soprattutto con le persone con cui si opera. Cioè i cinesi non sono i manager cinesi, per esempio, non sono dei freddissimi, adesso chi è giapponese in ascolto non si arrabbi, dei freddissimi educati a una grande dissimulazione come fanno i manager giapponesi, che non si riesce mai a capire davvero che cosa pensino. No, i cinesi non sono così. No, i cinesi sono decisamente più passionali anche nel business. Per loro ovviamente il lavoro è in primis e probabilmente anche il business di conseguenza, quindi non sono assolutamente freddi. E quindi lì si è trovato bene, invece la cosa che si è rivelata un ostacolo molto superiore a quello che immaginava lei e la sua famiglia? Ma in alcuni casi gli aspetti burocratici, che però secondo me sono decisamente più semplici rispetto magari a quelli europei, però anche qua hanno avuto, cioè, ogni tanto ostacolano. Ma ostacolano perché è così per tutti, anche per le altre imprese cinesi, o ostacolano gli italiani perché li obbligano, cioè le imprese straniere? Perché a giudicare dall'andamento di molte imprese, vedo tedesche, insomma, qua stiamo andando in questo 2010 con ritmi di aumento del fatturato delle grandi aziende automobilistiche in Cina tra l'80 e il 100%. Questi sono i risultati di Audi, Mercedes, BMW, che oramai vendono una percentuale elevatissima delle proprie produzioni all'estero, tutte sul mercato cinese. Dovessi giudicare da questo, mi parrebbe che grandi ostacoli non ci sono, però la sua esperienza è che invece ci sono ancora. Infatti diciamo che la Cina rimane comunque una delle mete più attraenti anche per il discorso del foreign direct investment, quindi no, non lo intendevo dire a livello di aziende, anzi loro facilitano l'ingresso e soprattutto quelle ad elevato contenuto tecnologico. Direi nella gestione del day by day, ogni tanto ovviamente ci sono ostacoli, anche perché le direttive che magari partono dal governo poi devono venire implementate dagli organi provinciali e poi dagli organi, diciamo, locali, e quindi ogni tanto c'è qualche difficoltà, però in generale direi che è soltanto nella gestione del day by day. Lei dove sta? Shanghai, no? Allora, la nostra sede produttiva è a Qingdao, nello Shandong, quindi diciamo in uno dei maggiori porti della Cina, per intenderci, dove c'era la colonia tedesca nell'epoca coloniale. E se la cava col cinese? Ma diciamo, io me la cavo a livello basilare, riesco ad arrangiarmi nella vita quotidiana, mentre diciamo che la mia famiglia invece riesce a comunicare decisamente meglio di me. Va bene, allora quindi i familiari se la cavano meglio, e quindi lei invece nelle trattative di mi pare di capire di business ha bisogno ancora del traduttore. Leonello Bosco, se dovessimo dare nell'arco del tempo in cui lei si occupa di internazionalizzazione, quindi insomma un po' una specie di business angel per imprese, settori, segmenti che vogliono investigare come e se mettere le tende in quel paese, in Cina, se dovesse dare un giudizio a come è migliorata o è voluta nel tempo la capacità dell'Italia di fare sistema nella sua componente pubblica, quindi nelle diverse componenti, ICE, SACE, le grandi missioni, per così dire, sulle quali io sono un po' sempre scettico, perché poi le grandi missioni si risolvono a migliaia di incontri B2B, business, nei quali io poi non so quale sia il follow up, però invece nella capacità di fare sistema, se dovessimo giudicare un po' con i nostri competitor tedeschi, certo i competitor tedeschi ci battono di molti punti, allora stando lì forse si capisce meglio quali sono i punti su cui lavorare meglio per chi ha un'impresa, sta in una filiera eccetera eccetera, magari non è patrimonialmente così sostenuto da potersi permettere chissà quale campagne e quindi ha bisogno di qualche dritta per capire se l'Italia è capace di fare sistema o ha imparato meglio dai suoi errori come fare sistema. Lei che dice? Io direi che purtroppo ha imparato piuttosto poco. Io le do solo due numeri per inquadrare un caso. Io parlo in questo momento l'agroalimentare italiano in generale l'agroalimentare, ma italiano in particolare, è sotto i riflettori perché ha un potenziale enorme, ma il nostro agroalimentare vale lo 0,3% dei 42 miliardi di dollari che la Cina importa, quindi abbiamo perso tutti i treni in un settore che per noi è chiave, insomma. Quindi diciamo che non abbiamo imparato a fare il sistema, abbiamo un supporto di sistema molto molto basso e anche dal punto di vista della qualità piuttosto, diciamo, limitato, nonostante alcuni esempi molto interessanti di tentativi anche istituzionali che partono con una certa capacità, che però poi per qualche ragione si esauriscono. Quindi non dica solo, non facciamo i diplomatici, non dica per qualche ragione si esauriscono, tentiamo, facciamo un po' i cattivi. Diciamo, questa è la radio di Confindustria, mi espongo anche a dire che magari anche Confindustria ha dei difetti, però parliamone dal suo punto di vista, quali sono questi difetti? Guardi, io sono rimasto molto impressionato dall'unica visita veramente organizzata dopo tanti anni, che è stata quella fatta nel 2008 da Prodi con Confindustria, con ABI, e quella è stata veramente una diciamo capacità di sistema, e si è visto effettivamente il sistema. Hanno fatto una serie di visite in tutta la Cina e questa era la strada. Questo effetto di propulsione iniziale però poi si è rivelato poco consistente in termini di risultato, ma poi il problema è che le aziende non sono tutte in grado o raramente sono in grado di affrontare poi il mercato, perché un conto è aprire la strada, e la strada la aprono le grandi aziende, come ha fatto Carraro, come ha fatto, sta facendo in qualche modo Fiat, come ci sono molti esempi di eccellenza, ma le eccellenze non fanno statistica. Però momento, Fiat ha sbagliato sempre sulla Cina. Fiat, diciamo, dei grandi gruppi internazionali, ci sta riprovando, ma mette a segno un enorme ritardo, e proprio l'assenza e gli errori di identificazione del partner cinese di Fiat rendono la sua strategia di consolidamento mondiale è la parte più zoppicante del disegno di Marchionne. Però voglio dire, rispetto all'agroalimentare per esempio, che per noi potrebbe essere un enorme mercato, anzi lo è la Cina, il punto è che dopo una propulsione anche di sistema le imprese non hanno strumenti, mezzi, conoscenza, informazione per affrontare il mercato cinese, quindi cercano soprattutto le piccole imprese di utilizzare gli strumenti che hanno conosciuto andando in Germania, andando in Inghilterra, andando in Canada, andando negli Stati Uniti, cosa che in Cina non funziona. La Cina è un altro mondo. Non abbiamo management preparato sull'Asia, abbiamo pochissima informazione, non abbiamo canali distributivi perché la Metro sostiene la Germania, Auchan, Carrefour sono dappertutto, sono francesi, la Tesco inglese è presente, Walmart con gli americani, noi non abbiamo nessuno che fa da apripista per la distribuzione, quindi le aziende sono costrette in qualche modo a inventarsi. Cioè dice che l'esperienza di Caprotti nel fare la guerra alle cooperative qua rosse in Italia dovrebbe indurlo forse a portare un po' la guerra anche in Cina, insomma. Sì, ma guardi, il sistema, quando le aziende si mettono insieme anche in maniera limitata, non penso che bisogna fare grandissimi sforzi, però alcuni elementi tipo il marketing, che in Cina è il primo elemento di vendita nell'agroalimentare, perché se non c'è marketing della cultura, se non c'è marketing della tradizione, non si vende il vino, non si vende la pasta. Noi siamo undicesimi nei gelati, per esempio, siamo ottavi nei formaggi, siamo al nono posto nei prodotti da forno e siamo settimi nel vino come esportatori verso la Cina con una quota di mercato. Ma se noi siamo, ho capito bene, undicesimi nei gelati, ma chi ci batte nei gelati di 10 posizioni? La prima è la Francia. Vergogna, vabbè. La Francia ha il 75% del mercato di gelati in Cina. E come si fa a spiegare questa cosa? Si spiega perché, le faccio un esempio legato al vino, che è un settore che conosco bene. Quando si muove la Francia, si muove con un consorzio di Bordeaux e fanno due giornate di testing gratuito per tutti gli operatori e fanno cultura francese. Mentre noi le filiere invece delle grandi aree evocate non fanno altrettanto. No, noi abbiamo per esempio, tanto per essere espliciti, il consorzio del Prosecco, due mesi fa è stato fatto a Shenzhen una manifestazione che si chiama Miss Prosecco Shenzhen, ma è stata fatta da un'azienda che si è messa insieme a un'azienda italiana e un'azienda cinese, hanno promosso la cultura del Prosecco. Il Prosecco ha un grandissimo mercato proponibile perché sta calando molto lo champagne come in tutto il mondo, però sono iniziative che partono da, diciamo, sporadiche, con mezzi molto limitati e così via. Quindi purtroppo direi che la lezione sul fare il sistema non si è imparata. Allora, io intanto la fermo qua perché abbiamo la pubblicità e poi immediatamente poi ripartiamo con chi ha avuto un ruolo di un certo peso, insomma, nel tentativo di rafforzare la proiezione sistemica del nostro paese in aree come la Cina. L'ha avuto prima come studioso, poi l'ha avuto nel sistema Italia, che si occupa professionalmente di tutelare e rafforzare la proiezione delle imprese italiane, e cioè appunto col professor Beniamino Quintieri, che è oltretutto anche commissario generale del governo per l'esposizione universale di Shanghai. Riprendiamo con lui, ma dopo la pubblicità. Allora, professor Quintieri, ha sentito cosa diceva Leonello Bosco? Insomma, forse la lezione dei grandi competitor internazionali, delle grandi catene distributive francesi, tedesche, eccetera, c'è ancora di che riflettere, perché sono ancora sul campo capaci di dar forza alle loro imprese più di quanto non capiti con noi alle nostre, e soprattutto visto che le nostre poi hanno in media una taglia patrimoniale, quindi risorse da poter investire nella proiezione estera minori, ohimè, pari grado nelle stesse filiere in cui francesi e tedeschi ci sono concorrenti. Che dice il professor Quintieri? È un po' così oppure la cosa è iniziata a cambiare? No, sono d'accordo. È chiaro che il limite dimensionale è stato quello che ha più di tutti ostacolato una adeguata penetrazione del sistema produttivo italiano in Cina. La prima fase della apertura del mercato cinese è stata sfruttata in larga parte dalle multinazionali straniere. Inutile dire che noi, quanto multinazionali, siamo piuttosto scarsi. È stata citata prima l'occasione, la grande occasione persa dalla Fiat, direi ormai 20 anni fa. Basta circolare per la Cina e si vedono solo macchine tedesche e francesi. E quindi, diciamo, questo è stato l'elemento che ha condizionato. Io direi che il futuro lo vedo un pochino più roseo, per due ragioni. Intanto perché le multinazionali che dovevano essere presenti già ci stanno, e quindi questa fase credo sia completata. In secondo luogo, le imprese italiane hanno sofferto molto dal fatto che c'era un mercato che si stava formando, ma non c'erano regole adeguate, e molte imprese ne sono uscite anche con le ossa rotte, fidandosi dei loro partner cinesi. Adesso mi pare che anno dopo anno la situazione stia migliorando, c'è un insieme di regole che stanno rafforzando, c'è una maggiore tutela degli investitori stranieri, c'è anche maggiore consapevolezza da parte delle imprese italiane che venire a investire in Cina non è una passeggiata, bisogna prendere le accortezze, essere più presenti, non basta fare una joint venture e poi tornarsene a casa. Si diceva prima giustamente che le regole che hanno permesso alle imprese italiane di prosperare in Europa sono molto diverse e molto più semplici. Qui bisogna esserci, bisogna offrire servizi, bisogna investire nel paese, e non altrimenti è difficile esportare. Senta, il padiglione italiano nell'ambito di questa cosa stellare, veramente, di questa dimostrazione di ingresso nell'ambito di una potenza vera imperiale che è l'esposizione universale di Shanghai 2010, il padiglione italiano che cosa ci sta dicendo in realtà per il suo andamento? Questa è una domanda che dovrebbe fare agli altri, non a me, che sono direttamente... No, ma io, dichiariamo il suo conflitto di interesse, quindi facciamo tara di quello che dirà. Il conflitto di interesse, posso francamente dire che è stato un successo impensabile. Varie analisi fatte prima dell'Expo indicavano che l'Italia non fosse un paese prioritario nelle scelte del potenziale visitatore cinese. Venivamo persino dopo l'Egitto, in alcuni casi, è sempre intorno al 10° posto. Adesso possiamo dire di essere i più popolari. Certamente posso dire che siamo stati bravi noi e tutto il mio staff, ma è anche vero che c'era un potenziale che era largamente forse inutilizzato, non pienamente sfruttato, che è venuto fuori. Penso che da questa avventura italiana qui a Shanghai possa venire qualcosa di buono per il futuro. Va bene, e speriamo soprattutto che ci venga anche un buon esempio per Expo 2015, pensando a come siamo indietro. Vabbè, allora, prima abbiamo sentito Daniele De Cristina, che ormai da anni col suo, nel suo gruppo sta in Cina, dice: la mia famiglia in realtà si è ambientata più rapidamente di me, cioè almeno dal punto di vista degli usi, costumi e lingua, però in buona sostanza la cosa si è rivelata dal punto di vista umano molto meno problematica di quanto mi aspettassi. E se voi foste giovani, se aveste dei figli magari che stanno a un certo punto dei propri studi universitari, e come al solito, per chi se lo può permettere, io mi auguro un buon numero di voi, ma soprattutto attenti anche chi crede di non poterselo permettere, se inizia a mettere da parte sui piani finanziari, quando i bambini sono piccoli, dei piani di accumulo per consentire la loro formazione universitaria e post-universitaria, guardate che non c'è bisogno di molti soldi, bisogna farlo per anni. Però il mio consiglio a chi è in ascolto è che bisogna farlo, perché se voi pensate che l'università pubblica italiana vi dia quanto basta per addentare la mela mondo con buoni denti, la mia impressione dal di dentro è che vi sbagliate fortemente. Quindi, siccome io sono sostenitore di un modello per cui i ragazzi vanno presi quando sono giovani, a calci nel sedere, mandati fuori, la mia idea è che a questo proposito prendiamo anche in considerazione un nuovo flusso di orientamento della formazione, perché rispetto alle classiche tradizionali formazioni di università e business school leader nel mondo, quelle degli Stati Uniti, in Gran Bretagna, l'INSEE a Parigi e così via, la domanda è: perché non prendere in considerazione anche qualche cosa di molto diverso, magari la Cina? E così abbiamo deciso di farcelo raccontare da uno studente che io conosco personalmente, di cui ho grandissima stima, e che esattamente a un certo punto del suo percorso universitario si è grattato la zucca e ha detto: già, e perché io non vado a vedere un po' come funziona lì e magari poi decido di fare la mia formazione post-universitaria lì? E abbiamo quindi collegato con noi Sergio Bellotti, che insegna, glielo auguro per lui domani, anzi gli auguro di meglio, ma per il momento fa lo studente di economia alla Bocconi. Grazie e buona giornata. Buongiorno, Sergio. Buongiorno, buongiorno. Allora, tu sei a che anno di economia? Io sono al terzo anno e quindi sono all'ultimo anno della triennale in Bocconi, studio economia internazionale, management in lingua inglese, e mi trovo a dover affrontare la scelta, come si diceva prima, di scegliere un po' dove indirizzare la mia carriera futura, e quindi si tratta anche di scegliere dove andare a studiare, se rimanere nel continente europeo, se indirizzarsi ancora una volta. Io ho avuto già l'occasione di visitare gli Stati Uniti in più occasioni, e quindi di tastare quello che è il sistema educativo statunitense, oppure invece di cambiare l'orizzonte, quindi andare dal sole nascente. Ecco, e quindi tu hai deciso per il momento di andare a tastare dalle parti della Cina. Quindi dove sei andato, cosa hai visto, che impressione hai avuto? Beh, allora, io innanzitutto quest'estate ho speso un periodo all'università di Fudan, che è considerata l'eccellenza da un punto di vista manageriale in Cina. In Cina vige un sistema formativo molto competitivo, come si diceva precedentemente, soprattutto caratterizzato dalla presenza di tre Ivy League schools, che sono l'università di Pechino, l'università Tsinghua e appunto l'università di Fudan. L'università di Fudan, come dicevo, è caratterizzata dal management, l'università di Pechino è l'università per le scienze sociali per eccellenza, Tsinghua è l'università dedita agli studi dell'alto marxismo, e quindi ovviamente incentrata a carriere più politiche, qualora uno fosse mai interessato a carriere politiche nel mondo cinese. L'anno prossimo spenderò 6 mesi, grazie al programma di scambio offerto dall'Università Bocconi, in cui sono stato selezionato, alla Hong Kong University Science and Technology, che è sicuramente, da un punto di vista di qualità formativa, riconosciuta a livello mondiale, in quanto scala a maggior ragione di fronte alle università giapponesi, le classifiche tanto asiatiche quanto globali. Quindi a Shanghai, prima di tutto, anche perché secondo le direttive del governo cinese, Shanghai dovrà diventare entro il 2020 quello che sarà il centro finanziario mondiale, quindi ovviamente l'attenzione per quanto riguarda la finanza, qualora uno fosse interessato alla finanza, sarà fortemente orientata verso Shanghai piuttosto che Hong Kong. Hong Kong perché appunto rappresenta ancora una via di mezzo tra il modello cinese e il modello occidentale. E alla fine le tue prime impressioni ti dirigono verso quale polo di attrazione? Beh, sicuramente Shanghai mi ha colpito, ovviamente per il suo dinamismo economico, che è dimostrato, come si ricordava precedentemente, dall'Expo di Shanghai, una città che spende e investa quasi 3 miliardi di euro solo per la realizzazione del parco Expo e abbia le risorse finanziarie per investire 59 miliardi di dollari per la realizzazione delle infrastrutture legate appunto alla realizzazione dell'Expo, sono numeri che non possono lasciare passare inosservati. Se uno guarda anche le più realistiche statistiche sugli scenari globali e vede come 10 anni fa la Cina rappresentasse l'11% del GDP mondiale e le statistiche invece offrono appunto una visione della Cina rappresentante il 40% del GDP mondiale nel 2040, ovviamente bisogna fare anche i conti in tasca dove sarà il lavoro. Ecco, appunto di opportunità di lavoro in Cina ho avuto l'impressione che queste opportunità di lavoro siano per il momento relegate a esperienze di multinazionali, quindi se uno ha l'intenzione di intraprendere una carriera manageriale in aziende multinazionali, l'impressione forte è la Cina è il luogo dove essere. Più difficoltoso mi sembra, ma d'altronde non è un fenomeno solamente cinese, l'inserimento nella struttura imprenditoriale, commerciale, quindi manageriale cinese stessa, in quanto ho percepito una sorta di giusta chiusura nei confronti di, non giusta chiusura, forse è meglio dire una sorta di preferenza per il costume cinese che è più facilmente accettato rispetto al costume internazionale. Comunque Shanghai è lì il futuro. Ecco, il futuro, temo che sia già il presente oltre che il futuro. Hai dato un occhio anche a che tipo di coetanei cinesi si incrociavano nelle business school in cui sei andato a ficcare un po' il naso? Cioè, questi cosa sono? Sono ancora i figli dell'alta dirigenza? Si vedono i figli della middle class? Che tipo di... come sei rimasto? Qualche sorpresa? Certamente Fudan, come dicevo prima, è una università che rappresenta l'eccellenza e quindi l'influenza partitica è molto forte, basti pensare al fatto che le cariche all'interno della rappresentanza istituzionale dell'università coincidono con cariche partitiche, quindi è evidente quale sia ancora il ruolo che il partito gioca nell'università e quindi è evidente l'influenza che, quindi per rispondere alla domanda del dottor Giannino, sì, la presenza del partito si traduce in presenza di persone legate alla politica, quindi anche di figli di classe dirigente. Tuttavia bisogna ricordare la grandissima competitività che vige all'interno di queste università. Per entrare alla Fudan ci sono dei test che non sono minimamente paragonabili ai test che occorre passare per entrare nelle nostre grandi università italiane. Quindi più tosti di quelli della Bocconi, insomma. Molto più tosti di quelli della Bocconi, sì. Hai capito, ragazzi. Ma le ragazze... No, adesso un'altra, però si disunisca un po' il giovane Sergio Bellotti. Le ragazze come sono? Le ragazze sono cinesi, non dubito che tra di loro ci siano anche... Vabbè, ho capito, c'è la fidanzata in ascolto e quindi non si può dire niente. Sì, dobbiamo essere diplomaticamente corretti. Mio Dio, ma questo abbiamo beccato il giovane più ingessato che si fosse possibile trovare. Non dice mezza parola se non quelle che uno si aspetta, no. Al di là di tutto, ora abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale, però su questo aspetto umano, adesso torno a rompere le scatole un po' al giovane Sergio e poi con Lionello e con Daniele vediamo un pochino questo aspetto umano, perché io temo che se bisogna che arrivi in ascolto a chi è in ascolto il messaggio che lì c'è già il futuro, il presente, credo che sono proprio i problemi nella nostra testa, quelli umani da superare per primi. Lo si vede con quello che abbiamo riservato ai cinesi nella nostra grande città. È ovvio che molti di coloro in ascolto dicono basta con la concorrenza cinese sleale e l'occupazione da parte cinese di interi quartieri, però il problema è che forse dobbiamo aprire le teste o lo facciamo oppure temo che loro sono più bravi persino a casa nostra. Allora, eccoci tornati in studio per quest'ultima parte della trasmissione. Considerare se buttarsi, tuffarsi in un futuro che è già presente e che si è affermato come il grande polo della crescita mondiale, il grande motore della crescita mondiale, che bisogna anzi augurarsi abbia questo particolare meccanismo di attuazione dell'intertemporale delle decisioni economiche che si chiama Armata Popolare Cinese, che si sta rivelando diciamo l'attuatore delle catene di trasmissione dei segnali dell'economia, quelli della politica fiscale come quella della politica monetaria leggermente più efficace che ci sia mai stato nella storia dell'economia moderna da che esiste il mercato. Diciamo che imprime i classici tempi di variazione temporale da che c'è una decisione sul tasso di interesse. Di solito gli studi comparati nei diversi paesi OCSE dicono che a seconda della vischiosità degli ambienti economici reali sottostanti, un segnale di politica monetaria prima che arrivi all'ultimo punto della catena dei prezzi in formazione, a volte possono passare 18-24 mesi addirittura, e beh, in Cina l'armata popolare cinese fa la differenza. Il meccanismo è rapido, efficiente, in poche settimane, in pochi mesi, ciò che politica fiscale e politica monetaria decidono, molto più rapidamente che altrove, arriva alla formazione dei prezzi, e quindi questo dà una certa energia al sistema. Noi dobbiamo augurarci, con tutto il rispetto, lo dico sempre, per i diritti politici, sindacali, civili, religiosi dei cinesi, ai quali deve andare il nostro massimo sostegno, però dobbiamo contemporaneamente, se ci sta a cuore la crescita del mondo, augurarci che questa efficacia della catena intertemporale delle decisioni economiche cinesi resti abbastanza efficiente, perché Dio ci scampi da una crisi del credito cinese, per esempio, perché quello che si verificherebbe sarebbe un nuovo botto del commercio mondiale, e credo che abbiamo già visto cosa vuol dire nei primi due trimestri del 2009 un botto del commercio mondiale. Ma dicevamo, l'aspetto umano delle difficoltà. Leonello Bosco, lei vive in Cina, dovesse dare una sua opinione sulle difficoltà umane, quindi qua stiamo parlando di famiglia, cose eccetera. Io per esempio ho un paio di figli di miei amici imprenditori che stanno lì per la propria impresa, che si sono innamorati, hanno sposato una cinese, e i padri mi dicono: sì sì, molto bene, però certo, se moglie cinese cambiano proprio la testa anche ai miei figli italiani. Da questo punto di vista, quanto è aperta agli incroci la Cina di oggi, Leonello? Ma la Cina secondo me oggi è apertissima, il problema è un po' diverso, noi lo consideriamo un problema culturale, in realtà noi non siamo normalmente preparati all'apertura che i cinesi invece hanno, ma è tale la diversità che ci mette veramente in croce. E bisogna anche dire questo, che non è che l'aspetto umano sia un fatto a sé che uno può pensare di usare o non usare. In Cina non si fanno affari senza curare gli aspetti umani. Quindi una delle grandi difficoltà delle imprese italiane è che non conoscono nulla o pochissimo dell'Asia, della cultura, dei modi di fare, che sono non un po' diversi, sono radicalmente diversi, è un altro mondo. Quindi questo è un grossissimo vincolo che noi italiani, ma non solo noi, abbiamo quando ci relazioniamo con i cinesi: o siamo aperti almeno ad ascoltare, almeno ad osservare prima di criticare, giudicare, insegnare, o diversamente non riusciamo ad entrare in relazione, e non entrare in relazione vuol dire non fare affari in Cina. Ora, quindi, io adesso ecco, la interrompo, perché sottopongo a tutti voi ospiti l'interessante cosa per cui la raffica di messaggi che ho ricevuto dopo aver detto la Cina sono più bella anche casa, sono classici messaggi di ascoltatori arrabbiati come belve, perché dicono: ma sono più bravi a fare che? Sono più bravi solo a schiavizzare la gente, a non rispettare le nostre leggi e a rubarci il lavoro. Siamo obbligati dalla pessima globalizzazione ad accettare l'idea che questi schiavisti ci rubino il pane di bocca, e voi invece di difenderci ci dite che dobbiamo addirittura mandare i figli là. Ecco, io capisco chi ragiona così, però sappiate, vi dirò fino a che ho fiato in gola, che è completamente sbagliato. O capite che sono bravissimi anche a copiare, sì, perché guardate, innanzitutto i primi che eravano i master di copiatura eravamo noi italiani al mondo, cioè, se ce lo dimentichiamo che anche noi siamo andati avanti così, non so di cosa cacchio stiamo parlando. Però siccome sono bravi, forse è meglio capire e capirci piuttosto che credere che c'è il mondo che torna a separarsi, perché il mondo, grazie al cielo, più unito è, più cresce e più ce n'è per tutti, però per i bravi. Ve lo dico però perché questa è la reazione forte. Allora, Daniele De Cristina, concludendo, per esempio, la sua esperienza è un'esperienza a tempo? Si è già dato il limite di quando tornare qua in Italia oppure no? Ma diciamo che al momento è a tempo, io dovrei terminare nel 2012, però ricollegandomi a quanto diceva prima, sono anche lo studente che verrà in Cina, io voglio dire che anch'io sono tra quei sostenitori che diciamo dell'espansione culturale da parte degli studenti italiani, quindi anziché scegliere mete tradizionali che possono essere l'Europa, di spingersi verso i paesi del BRICS, soprattutto Cina, India oppure la Sud America. E io volevo dire poi che è vero che è un mondo totalmente differente, però è sempre fatto da esseri umani, e l'aspetto relazionale è assolutamente importante anche nell'arte della negoziazione. E quindi prima di arrivare in questi paesi, concordo con l'intervento, certo è importante conoscere le persone, conoscere la cultura, anche la stessa politica. È vero che ci sono tante cose da migliorare, però loro hanno cominciato a farlo. Noi mi sembra che stiamo più che altro cercando di utilizzare magari i loro errori per giustificare certe nostre incompetenze. Oh. E sinceramente è vero che si può piangere sul latte versato. Però è meglio non farlo. Però, che... Esatto, è meglio essere un po' più costruttivi. Tra l'altro, iniziassimo un po' a insegnare il cinese ai nostri licei linguistici sarebbe meglio, giusta osservazione di un'ascoltatrice. Sergio, concludendo, tu prenderesti predi di poter prendere in considerazione l'idea, oltre che di fare un pezzo di tua formazione universitaria e post-universitaria, anche l'idea di provare ad andare a trasferirti lì per un po' e accettare l'idea di contaminarti e di viverti un po' alla cinese, sia pure in quella parte di Cina un po' anomala e mondializzata che è Shanghai, oppure no, dalle tue prime impressioni? Ma penso proprio di sì, soprattutto se uno considera che contaminazione vuole anche dire un confronto reciproco con culture molto diverse, quindi soprattutto a Shanghai, che mi sembra essere, io ho avuto solo l'occasione di visitare Pechino e Shanghai al momento e ho constatato che la città di Shanghai dovrebbe essere un modello tale per cui tanto la cultura cinese quanto la cultura internazionale vengono fuori e si mescolano per creare quello che appunto sarà probabilmente, se non è già, come si diceva prima, il centro del mondo. Quindi Shanghai soprattutto deve essere, questa è la mia impressione, oggetto di riflessioni per gli studenti e non solo. Allora, oggi purtroppo ci è mancato, come spesso, quasi sempre capita, una sola osservatrice femminile, e il problema dal punto di vista della metà, anzi più della metà del cielo, secondo me è essenziale, proprio per capire le difficoltà culturali, per capire l'ambientazione, eccetera, eccetera. Quindi dovremo farlo avendo bene in mente che il problema, visto dal punto di vista delle donne, è di solito ancora più importante che dal punto di vista degli uomini. Però provateci davvero, voi che state a casa, questi non sono i ladri del nostro presente, sono quelli grazie a cui il nostro presente è un po' meno povero di quello che rischiavamo 2 anni fa. Grazie quindi a Sergio Bollotti, a cui do auguri per i suoi esami e per il suo futuro anche cinese, a Daniele De Cristina, direttore marketing e vendita della Carraro Spa per l'area dell'Asia Pacifico, a Leonello Bosco, che vive in Cina e fa il consulente di internazionalizzazione, e al professor Beniamino Quintieri, commissario del governo per l'esposizione universale di Shanghai. Grazie anche in regia Carmelo Lauricella, in redazione Alessandro Marco Tulli, e a Franco Piantanida, grazie a cui pazienza siamo andati in onda anche oggi. Linea al giornale radio, appuntamento a domani.